Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, la Turchia, nonostante la giornata ovviamente sia ampiamente occupata e concentrata sulle elezioni americane, tra cui torniamo un attimo, la Turchia, perché il commissario europeo all'allargamento Hahn, stamattina ha chiesto ad Ankara di fare un po' il punto della situazione, perché di nuovo la Turchia è ritornata a parlare dell'accordo sui migranti, è ritornata ad attaccare l'Europa, soprattutto di invadere lo spazio della politica turca quando si occupa di temi di libertà civili e anche quando appunto interviene su quelli che sono gli sviluppi e gli esiti del fallito colpo di Stato che da parecchie settimane insomma sta scuotendo il paese. Questo dunque il punto che sentiamo nel servizio di Anna Marino. Aumentano le distanze tra Bruxelles e Ankara nei negoziati sull'adesione all'Unione Europea. Il presidente turco Erdogan sfida apertamente l'Europa dopo le critiche e le manifestazioni ieri contro l'escalation di arresti nel paese della Mezzaluna. Erdogan alza il tiro contro i segnali negativi lanciati dal presidente Juncker, che aveva detto della Turchia la vedo allontanarsi sempre più dall'Europa. Questa la sfida, dicono sfacciatamente e senza vergogna, che l'Unione Europea dovrebbe rivedere i suoi negoziati con la Turchia. Fatelo, ma non rivedeteli soltanto, prendete una decisione finale. Erdogan avverte. Ma che succede se i negoziati finiscono e si aprono le porte dove metterebbero quei 3 milioni di rifugiati che sono in Turchia? La risposta non si è fatta attendere, ora che Ankara ci dica cosa vuole davvero. Questa è una prova per la loro credibilità, ma anche per quella dell'Unione Europea, così il commissario europeo all'allargamento Hahn nel presentare all'Europarlamento il rapporto annuale sull'adesione della Turchia, che ha definito incompatibile a diventare membro dell'Unione Europea. E il premier turco non manca di approfittare anche del risultato delle elezioni americane per dare spazio alle lotte intestine e reclama a gran voce: invito apertamente il nuovo presidente all'estradizione urgente di Fethullah Gülen. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Donald Trump, che intanto si gode il trionfo alle presidenziali americane, che domani verrà ricevuto da Barack Obama alla Casa Bianca, così comincia a dare un'occhiata per poi in gennaio, come consuetudine, insediarsi. Allora sentiamo invece qual è stata la reazione questa mattina da Bruxelles, inteso appunto come capitale dell'Unione Europea. Sono reazioni imbarazzate e ambivalenti quelle che la vittoria di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca ha provocato nell'establishment europeo. In una lettera pubblicata stamani, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk hanno invitato il nuovo presidente americano in un vertice congiunto da organizzare appena gli sarà comodo. I due uomini politici, il primo democristiano e il secondo liberale, hanno spiegato che, per fortuna, il partenariato strategico tra Unione Europea e Stati Uniti è ampio e profondo. Più preoccupato si è voluto il presidente del Parlamento europeo, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz. Lo sguardo qui a Bruxelles è tutto rivolto al rapporto che Donald Trump vorrà avere con l'Europa, tenuto conto che si è detto isolazionista. In campagna elettorale il nuovo presidente americano aveva anche criticato la NATO e rimesso in discussione la lotta all'inquinamento. La speranza di molti qui a Bruxelles è che tra il Trump candidato e il Trump presidente vi siano nette differenze. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È tutto per Europa 24, ora tutti convocati, noi ci risentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.